Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Come vi ho detto già altre volte in altre mie predicazioni, la salvezza per grazia è odiata da molti che si dicono o si definiscono cristiani, perché sapete, fino a che si tratta di parlare dei musulmani è una cosa, perché voi sapete che i musulmani hanno una dottrina sulla salvezza che è palesemente per opere. Peraltro i musulmani rifiutano di credere in Gesù Cristo, loro non credono che Gesù Cristo è il figlio di Dio, non credono che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, perché dicono che al posto di Gesù morì qualcun altro. Allora, fino a che si tratta di parlare dei musulmani, allora siamo tutti d'accordo, perché i musulmani effettivamente, apertamente, rigettano proprio la salvezza per grazia. Per loro è inconcepibile la salvezza per grazia, come lo è anche per gli ebrei, intendiamoci, come lo è anche per tanti altri che non si definiscono cristiani, che non sono cristiani. Ma quando si passa a parlare di taluni che si definiscono cristiani e che negano anche loro la salvezza per grazia, allora la cosa ci deve interessare maggiormente. Perché? Perché costoro si definiscono cristiani. Perché se ci viene a parlare un non cristiano, noi già, diciamo, partiamo prevenuti in un certo senso, perché sappiamo che quello non è un cristiano. Però quando si presenta davanti a noi qualcuno che invece si definisce cristiano, dice che crede in Gesù Cristo, ma nega la salvezza per grazia, allora la cosa si fa più inquietante, e soprattutto l'attacco è più pericoloso, perché viene dall'interno di un ambiente che si definisce cristiano. Ora, in ambito evangelico, ci sono taluni che negano la salvezza per grazia, che se ne dica, è così. Anche tra coloro che promuovono i principi della Riforma, praticamente per esempio il principio della sola grazia o sola fede, sono due principi della Riforma protestante. Ebbene, ho compreso che molti la grazia la negano. Non ci credono nella salvezza per grazia, la negano. Annullano costoro la grazia di Dio. E anche nell'ambiente pentecostale si sono insinuati taluni che oramai rigettano la salvezza per grazia, l'annullano la grazia di Dio. E quindi costoro costituiscono un pericolo maggiore di quanto lo costituiscono i musulmani, i buddisti, gli ebrei. È un pericolo veramente assai superiore. E dunque mi trovo costretto a difendere per l'ennesima volta la salvezza per grazia. Io non avrei mai immaginato, questo l'ho detto altre volte, di dover difendere così strenuamente la salvezza per grazia dagli attacchi di persone che si definiscono cristiani, evangelici, pentecostali. E d'altronde però dobbiamo prendere atto che le cose stanno così e quindi ci leviamo in favore della verità. Il Signore ha dato una bandiera, uno stendardo a quelli che lo temono affinché si levino in favore della verità. Io sono uno di coloro a cui Dio ha dato questa bandiera e quindi io mi levo in favore della verità. In questa mia predicazione mi leverò in favore della grazia di Dio. D'altronde l'Iddio che noi serviamo, che noi adoriamo, è l'Iddio d'ogni grazia. È l'Iddio che ci ha voluto fare grazia. Noi abbiamo sperimentato la grazia di Dio in Cristo Gesù, per cui sappiamo di cosa parliamo. Non siamo di quelli che parlano di cose che non hanno sperimentato o di cose che non sanno. Noi abbiamo sperimentato la grazia di Dio, abbiamo veramente sperimentato la salvezza per grazia, mediante la fede in Gesù Cristo, e quindi ne parliamo anche in base alla nostra esperienza. In primis ne parliamo perché la Scrittura proclama la salvezza per grazia, ma confermiamo la salvezza per grazia raccontando la nostra testimonianza, che è pienamente in accordo con quello che sta scritto, e non potrebbe essere altrimenti, perché noi siamo discepoli di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Allora, voglio partire da un'affermazione che costituisce la dottrina ufficiale di una setta. Di una setta naturalmente che si presenta come Chiesa di Cristo, la setta dei Mormoni. Perché ho deciso di partire da questa loro dichiarazione? Perché questa loro dichiarazione è emblematica e fa comprendere come tanti non sanno cosa sia la grazia. Infatti i Mormoni, questa setta chiamata dei Mormoni o Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, non sa cos'è la grazia, non crede nella salvezza per grazia. E questa loro affermazione mi ha sempre colpito. Voi sapete che io ho scritto tanti anni fa un libro per confutare l'eresia dei Mormoni. Ebbene, tra tutte le eresie di questa setta che è nata negli Stati Uniti d'America circa 200 anni fa, infatti è stata fondata nel 1830, peraltro è stata fondata da Joseph Smith che era un massone. Io però quando scrissi il mio libro contro i Mormoni, questa cosa non la sapevo e quindi non la misi nel libro, la scoprì dopo. Ebbene, questo massone praticamente ha fondato una setta che conta milioni di membri in tutto il mondo, quindi non è che stiamo parlando di una piccola setta, stiamo parlando di una setta particolarmente numerosa. È anche una setta molto potente negli Stati Uniti. Praticamente loro hanno tutto uno stato che è il loro, no? Lo stato dello Utah, la famosa città di Salt Lake City e così via. Insomma, hanno uno stato tutto loro, sono una potenza economica enorme. Peraltro ultimamente, la setta dei Mormoni è stata investita da uno scandalo, notevole. Uno scandalo finanziario. E comunque, tra le tante eresie di questa setta c'è quella appunto che annulla la salvezza per grazia. E ho deciso di prendere questa dichiarazione come punto di partenza perché sostanzialmente, ormai tanti che si definiscono, cristiani evangelici, sostanzialmente sostengono la stessa cosa. Che cos'è che sostengono? È per grazia che siamo salvati dopo aver fatto noi stessi tutto il possibile. Questa appunto è la dichiarazione dei Mormoni. È una dichiarazione la ripeto, è per grazia che siamo salvati dopo aver fatto noi stessi tutto il possibile, è una dichiarazione presente, diciamo, nel loro, in uno dei loro libri sacri, che è il Libro di Mormon. Attenzione, il Libro di Mormon, che è un libro pieno di falsità, e in questo libro, che sostanzialmente viene reputato superiore alla Bibbia, loro usano anche la Bibbia, però il Libro di Mormon praticamente lo considerano superiore, di fatto lo considerano superiore alla Bibbia. Ebbene, questa dichiarazione è nel Libro di Mormon ed è una dichiarazione eretica, ed è una dichiarazione che fa comprendere come appunto questa setta dei mormoni, che peraltro ricordo, il massone Billy Graham tolse, diciamo, dalla lista delle sette, li considerava cristiani Billy Graham, d'altronde non poteva essere altrimenti. Come anche le assemblee di Dio americane hanno tolto i mormoni dalle sette. State molto attenti, perché la massoneria sta facendo questo, sta avvicinando le chiese evangeliche, comprese quelle pentecostali, alla setta dei mormoni. I mormoni, ve lo dico con ogni franchezza, non sono cristiani, non sono discepoli di Gesù Cristo, predicano un altro Vangelo, proprio un altro Vangelo, predicano un altro Dio, un altro Gesù, insomma, sono una setta che si è data alle favole, praticamente corre dietro alle favole e ha, diciamo, volta le spalle alla verità. E allora, è per grazia che siamo salvati, loro dicono, dopo aver fatto noi stessi tutto il possibile. Ora, nella pratica, com'è che lo spiegano, diciamo, questo concetto? Lo spiegano in questa maniera. Loro dicono, il nostro debito, peccato, era troppo grande per noi, per essere pagato da noi. Allora, Gesù che cosa ha fatto? Ha pagato il debito. Ma attenzione, attenzione. Gesù per loro ha ridotto il debito a qualcosa che possiamo pagare facendo opere buone. Cosa significa questo? Che c'è un debito che Gesù ha pagato, secondo costoro, ma rimane un debito da pagare per i suoi discepoli, per i discepoli di Gesù. Questo debito va pagato compiendo opere buone. Nella setta dei mormoni, le opere buone sono, che loro chiamano opere buone, sono svariate. Per esempio, una delle opere buone è quella del pagamento della decima, ma ci sono tanti altri precetti, diciamo, in nome della carità, in nome dell'altruismo che loro promuovono. Ricordatevi che i mormoni promuovono molte diciamo, iniziative filantropiche. E ricordatevi che i mormoni sono stati fondati da un massone, quindi ci sono tanti massoni all'interno della setta dei mormoni. Peraltro anche qui in Italia c'è un tentativo diciamo, da parte di alcuni massoni, di avvicinare, diciamo, il movimento pentecostale al mormonismo. Quindi vi metto in guardia affinché, se qualcuno che si definisce pentecostale viene a voi e vi dice: ma sai, ho incontrato dei fratelli, diciamo, credono a quello che crediamo noi, sono dei cristiani, si chiamano mormoni. Allora, sappiate, innanzitutto vi dovete guardare da questo scellerato, perché questo non riesce a discernere una pecora da una capra. E poi, naturalmente, state attenti, perché i mormoni non hanno niente a che fare col cristianesimo. E allora, veniamo, diciamo, al punto che voglio confutare con questa mia predicazione. Ma allora, è così come dicono, diciamo, taluni, che è per grazia che siamo salvati dopo aver fatto noi stessi tutto il possibile? È così come dicono appunto costoro, che rimane, diciamo, qualcosa da pagare facendo opere buone per ogni cristiano, e quindi, diciamo, il debito, diciamo, che ha pagato Gesù non lo ha pagato interamente, perché ci ha lasciato una parte da pagare? È così? No, le cose non stanno assolutamente così. Quello che appunto costoro insegnano è una menzogna che non ha niente a che fare con la verità. Dice l'Apostolo Paolo, infatti, ai santi di Efeso: poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù d'opere, affinché niuno si glori, perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù, per le buone opere le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Quindi la salvezza che noi abbiamo ricevuta, l'abbiamo ricevuta per grazia, mediante la fede, cioè credendo nell'Evangelo, nella buona novella che Gesù di Nazaret è il Cristo, che è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture, che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo, potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima, poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: ma il giusto vivrà per fede. Ebbene, noi, credendo nell'Evangelo, siamo stati salvati. Dunque, non è stato in virtù di opere, ma è stato solo per grazia. E vogliamo ribadire che se è per grazia, non è per opere, perché le cose stanno così. O è per grazia o è per opere. Non si può parlare di una salvezza che è contemporaneamente per grazia e anche per opere. Paolo lo dice chiaramente: se è per grazia non è più per opere, altrimenti grazia non è più grazia. E infatti molti usano la parola grazia, ma non è la vera grazia di Dio. State molto attenti quando sentite parlare di grazia, perché molti usano la parola grazia, ma non credono nella grazia. Non ci credono, perché loro associano le opere alla grazia, nel senso che ritengono che ciò che la Bibbia definisce il dono di Dio si debba acquistare o guadagnare per opere. E allora, se non è in virtù d'opere affinché niuno si glori, è evidente che tutti coloro, non importa come si chiamano, che presentano una salvezza che è sia per fede che per opere, vi stanno cercando di sedurvi e stanno cercando di farvi scadere dalla grazia. Stanno cercando di farvi rinunziare a Cristo Gesù, che ci è stato fatto da Dio, redenzione. Quindi la redenzione dai nostri peccati è in Cristo Gesù, il Figlio di Dio. Noi, credendo in Lui, siamo stati salvati per la grazia di Dio. Ma badate bene, siamo tuttora salvati per la grazia del Signore. Infatti, così è scritto nel libro degli Atti degli Apostoli, queste sono parole dell'Apostolo Pietro che pronunziò a Gerusalemme davanti ad altri apostoli e anche altri credenti. Dice: noi crediamo d'essere salvati per la grazia del Signore Gesù, nello stesso modo che loro. Lui naturalmente parlava da ebreo, diciamo in quanto ebreo di nascita, e si stava riferendo, quando disse nello stesso modo che loro, ai gentili che avevano udito dalla sua bocca l'Evangelo, la parola del Vangelo, e nel quale Evangelo essi avevano creduto e erano stati salvati anche loro per grazia. Allora, quando dice l'Apostolo Pietro: noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù, vuol dire che noi in questo momento siamo salvati per la grazia del Signore Gesù, come eravamo salvati per la grazia del Signore Gesù un secondo dopo che abbiamo creduto, io per esempio nel 1983, poi ognuno naturalmente c'ha la sua data, però quello che voglio dire è questo: noi siamo salvati per grazia. Non è come dicono taluni, che noi siamo salvati per grazia dopo aver fatto noi stessi tutto il possibile. Se fosse così, allora vuol dire che noi saremmo salvati non per grazia, ma per opere. Perché se è per grazia, non è più per opere. E se è per opere, non è più per grazia. Allora la salvezza che presentano coloro che dicono sì, è per grazia che siamo salvati, però, capite? Se non facciamo, voglio dire, tante preghiere, tanti digiuni, se non facciamo tante elemosine, noi non potremo essere salvati. E che cosa è diventata allora la salvezza? Che cosa è diventata? È diventato un prodotto che Dio ha messo in vendita, che dona, o non che dona, che che dà a coloro che se la guadagnano con tante opere buone. Praticamente in questa maniera la salvezza viene proprio viene rigettata, perché viene rigettata la grazia di Dio. Allora, quando noi parliamo, fratelli, della salvezza che abbiamo in Cristo Gesù, voglio ricordarvi che dobbiamo necessariamente parlare anche della giustificazione, perché sono cose collegate, in quanto che noi eravamo dei peccatori, schiavi del peccato. Allora, credendo nell'Evangelo siamo stati salvati, e tuttora siamo salvati, dai nostri peccati, quindi siamo liberi. Siamo adesso servi della giustizia. Ma nel momento in cui abbiamo creduto nell'Evangelo, siamo anche stati giustificati. Quindi anche la giustificazione che abbiamo ottenuto, l'abbiamo ottenuta per grazia. Infatti il nostro padre Abramo, pare che fu costituito dal Signore padre di molte nazioni, credette a Dio, cioè gli fu messo in conto di giustizia. Che cos'è che gli fu messo in conto di giustizia? La sua fede. Quindi Dio gli imputò la giustizia senza opere. Il Signore, come fece con Abramo, così farà anche per noi. Infatti, lo sapete, è scritto, non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi, e quali sarà così messo in conto per noi che crediamo in colui che è risuscitato dai morti, Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Quindi la giustificazione che noi abbiamo, l'abbiamo ottenuta per grazia, mediante la fede. Infatti Gesù, il Cristo, ci è stato fatto da Dio giustizia. E Cristo è il termine della legge per essere giustizia ad ognuno che crede. Cristo è l'eterno nostra giustizia. Noi siamo rivestiti della giustizia di Dio. La giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Quindi è una giustizia che si ottiene gratuitamente. Cosa dice l'Apostolo Paolo? Dice così: ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio, attestata dalla legge e dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, poiché non v'è distinzione, difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Vedete, noi siamo giustificati gratuitamente per la grazia di Dio. Siamo. Non solo siamo stati giustificati, ma tuttora siamo giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Quindi, vedete, è escluso ogni vanto in virtù, appunto, della legge della fede. Perché? Perché il giusto vivrà per la sua fede, così è scritto. La giustizia di Dio, che appunto è stata manifestata, è una giustizia che è rivelata nell'Evangelo. È rivelata nell'Evangelo, è solamente nell'Evangelo. E quindi questa è la ragione per cui chi crede nell'Evangelo viene giustificato, reso giusto. Quindi eravamo dei peccatori, schiavi del peccato, siamo stati affrancati dal peccato, ma anche giustificati, resi giusti, per grazia, mediante la fede, non in virtù d'opere, affinché nessuno di noi si glori. Difatti, sapete, noi non abbiamo di che gloriarci dinanzi a Dio. Siamo stati affrancati dal peccato? Gratuitamente. Siamo stati giustificati? Gratuitamente. Ma di che cos'è che ci possiamo vantare davanti a Dio? Abbiamo ricevuto tutto per grazia. Ebbene, ebbene, oltre la salvezza dal peccato, oltre alla giustificazione, abbiamo ottenuto anche la vita eterna, sempre gratuitamente, esattamente come abbiamo ricevuto la salvezza e la giustificazione, così abbiamo ottenuto la vita eterna gratuitamente. Perché? Perché il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Questo è scritto nell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Ora, la vita eterna non è, come non lo è la salvezza dal peccato e la giustificazione, non è qualcosa che ci si può guadagnare. Non è qualcosa che noi possiamo acquistare o strappare dalle mani di Dio facendo opere buone. No, la vita eterna noi ce l'abbiamo in Cristo Gesù. Non dobbiamo guadagnarcela. Non dobbiamo meritarcela, perché ce l'abbiamo. Perché Dio ce l'ha data, ce l'ha donata. Questa vita, infatti, è nel figliolo di Dio. E noi abbiamo il figliolo. Crediamo nel suo nome, nel nome del figliolo di Dio. Quindi, cos'è scritto? Se accettiamo, leggo da Primo Giovanni, se accettiamo la testimonianza degli uomini, maggiore la testimonianza di Dio, è la testimonianza di Dio, è quella che gli ha resa circa il suo figliolo. Chi crede nel figliolo di Dio ha quella testimonianza in sé, chi non crede a Dio l'ha fatto bugiardo perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha resa circa il proprio figliolo. La testimonianza è questa, il Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figliolo. Chi ha il figliolo ha la vita e chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Comprendete dunque, il Dio ci ha donato, fratelli, la vita eterna. Ce l'ha donata, quando noi abbiamo creduto nel nome del suo figliolo, ce l'ha donata, da quel momento noi la possediamo, da quel momento noi possiamo dire abbiamo la vita eterna. Ah, ma voi siete presuntuosi, ci dicono i cattolici. No, no, noi non siamo presuntuosi, noi diciamo la verità. Peraltro se fossimo presuntuosi noi, allora sarebbero presuntuosi pure gli apostoli, che dicevano di avere la vita eterna. Giovanni ha scritto, io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliolo di Dio. Quindi, noi sappiamo di avere la vita eterna. Noi che crediamo nel figliolo di Dio, lo sappiamo. E per questo lo diciamo. Lo diciamo proprio per questo, perché lo sappiamo. Quando tu sai una cosa, ci tieni a dirla agli altri, Ci tieni. Quando tu vieni a sapere una cosa importante, ti faccio questa domanda semplice, ma tu ci tieni a farlo sapere agli altri? Certo che ci tieni. E allora, vedi, l'Apostolo dice affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Ci ha fatto sapere l'Apostolo Giovanni una cosa importante, che noi che crediamo in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, abbiamo la vita eterna. E quindi noi ci teniamo a far sapere ai fratelli, io ci tengo, come ci teneva Giovanni, a farvi sapere, fratelli nel Signore, che noi che crediamo nel nome del Figliolo di Dio abbiamo la vita eterna. Non che avremo, speriamo di avere, abbiamo. Abbiamo significa che la vita eterna dimora in noi, perché la vita eterna è nel Figliolo. Il Figliolo di Dio è la vita eterna che era presso il Padre che ci fu manifestata. Per questo chi ha il Figliolo ha la vita. Ma è anche vero che chi non ha il Figliolo di Dio non ha la vita. Ecco perché noi che abbiamo creduto, oltre ad essere affrancati dal peccato e giustificati, abbiamo la vita eterna. Ed ecco perché chi non ha la vita eterna è perché non crede. E quindi non è salvato e nemmeno giustificato. Ma allora chi non ha la vita eterna che combina? Che fa? Che fa? Lotta contro Dio. Lotta contro Dio, si dà da fare. Per fare che cosa? Per cercare di guadagnarsi la vita eterna. Già, perché non ce l'ha. Allora che deve fare? Allora cerca di guadagnarsela. In che maniera? Con le preghiere, con i digiuni, con le elemosine. Capite? Fetta dopo fetta. Fetta dopo fetta. Illusi. Scellerati, eretici, pensano di potersi appropriare della vita eterna, fetta per fetta. Fetta per fetta. Ma ditemi voi, ma queste persone, secondo voi, sono normali di mente? No, assolutamente. Nel senso che non hanno una mente sana, hanno una mente corrotta. Nelle tenebre sono infatti queste persone, nelle tenebre. La scrittura definisce queste persone facenti parte di questo mondo di tenebre. Costoro non si sono ravveduti, non sono ravveduti. Infatti non hanno la mente di Cristo. Coloro che hanno la mente di Cristo parlano come l'apostolo Giovanni. E cosa affermano? Voi che credete nel nome del Figliolo di Dio avete la vita eterna. Così parlano quelli che hanno la mente di Cristo. Invece quelli che hanno la mente di questo mondo dicono: noi ogni volta che ci inginocchiamo in preghiera ci appropriamo di un pezzo di vita eterna o di una fetta di vita eterna. Questi sono veramente persone dementi, prive di senno, però si presentano come cristiani, ma vanno banditi dall'Assemblea dei Santi, non bisogna avere niente a che fare con loro, perché costoro odiano l'Iddio d'ogni grazia, che ci veramente ci ha allargito grazia sopra grazia, che continua a farci grazia, che ci rende saldi nella grazia, questi lo odiano, infatti odiano la grazia di Dio, non la sopportano, come non sopportano quelli che predicano e difendono la grazia di Dio come è sottoscritto. Non sono il solo, però naturalmente sono tra coloro che predicano la grazia e la difendono, e sono odiato per questo, da questi scellerati eretici, che si insinuano in mezzo alla Chiesa, si introducono di soppiatto, fingono di credere, poi quando vengono scoperti e vengono cacciati via fanno le vittime. Fanno le vittime! Siamo stati cacciati via da una setta spietata, il cui guru si trova da Cilia. Questa setta così pericolosa, sarebbe la setta più pericolosa al mondo, quando li sentite parlare, sembra che noi siamo la setta più pericolosa al mondo, anzi direi di più, siamo l'unica setta che esiste al mondo, noi, certo, perché? Perché noi predichiamo l'Evangelo della grazia di Dio, e noi non sopportiamo gli eretici come loro, come loro, che si presentano come cristiani, ma loro non credono che Gesù è il Cristo. Ecco perché hanno questo veleno d'aspide dentro. Ecco perché quando parlano si sente veramente, si sente un odore di morte, è terribile. Alcuni quando parlano sono uno spavento, ma perché non sono nella grazia, non sono sotto la grazia. Ah, fratelli nel Signore, esalterò sempre la grazia di Dio sotto la quale noi siamo, fratelli, nella quale noi siamo, fratelli nel Signore, ma se non fosse stato per la grazia di Dio, se non fosse per la grazia di Dio, ma noi dove saremmo, fratelli, dove saremmo? Noi siamo sulla via della salvezza, siamo per la grazia di Dio. Ora, se siamo sulla via della salvazione, siccome che questa via mena alla salvezza, evidentemente è la via che mena dove? Nel regno celeste del nostro Signore. Eh? Eh sì, in questa via si predica la grazia e si difende la grazia. Ma allora qualcuno dirà, ma allora su questa via non si praticano le opere buone? Sì, sì, le opere buone vanno praticate, certo. E come se vanno praticate? Vanno predicate ed anche praticate. E bisogna essere zelanti nelle opere buone. Bisogna abbondare in opere buone, bisogna fare del bene a tutti secondo che ne abbiamo l'opportunità, specialmente a quelli della famiglia dei credenti. Sì, bisogna fare le opere buone, perché Dio le ha innanzi preparate affinché noi le pratichiamo. Ma badate bene, le opere buone che noi pratichiamo, con allegrezza peraltro, non mormorando, e nemmeno suonando la tromba, come fanno alcuni. Alcuni praticano le opere buone, sapete come fanno? Suonando la tromba e poi mormorando. No, noi non vogliamo sentire mormorii, e non vogliamo nemmeno sentire il suono della tromba quando qualcuno fa le opere buone, Allora, le opere buone che, diciamo, che noi pratichiamo, hanno una ricompensa sicura. Hanno una ricompensa sicura. Per certo, in quel giorno, quando poi compariremo davanti al tribunale di Cristo, ciascuno di noi riceverà la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quel che avrà operato bene o male. Ebbene, per le opere buone che noi abbiamo compiuto, riceveremo un premio. Un premio, naturalmente, che sarà proporzionato alla fatica che noi abbiamo compiuto nel Signore. E quindi le opere buone sono importanti. Le opere buone sono importanti perché mediante di esse, appunto, per esse noi saremo premiati in quel giorno. Ma attenzione a non confondere il premio con la vita eterna, perché la vita eterna non è che ce la si guadagna con le opere buone. La vita eterna è il dono di Dio. Capite il dono di Dio? Ora, quando voi fate un dono a qualcuno, perché qui bisogna parlare, diciamo, in questi termini per, diciamo, farsi capire da taluni, perché sembra veramente talvolta che parli un linguaggio veramente incomprensibile, anche se io non ritengo di parlare un linguaggio incomprensibile. Comunque, voglio veramente usare, diciamo, questa illustrazione. Ma voi, quando fate un dono a qualcuno, no? Perché glielo fate? Perché gli volete fare questo dono, giusto? Ma quando gli fate questo dono, ma voi, vi aspettate che chi riceve il vostro dono, vi paghi parte del dono? Anche una parte! Come dire, dai, ti regalo questo, però dai, almeno dammi, che ne so, dammi tot. Te lo regalo però dammi tot. Dai, non ti faccio uno sconto, dai, te lo regalo, però dai, dammi qualche cosina, su. Ma ditemi una cosa, ma che questo significherebbe fare un dono a qualcuno? Ma è assurdo, no? Cioè, non è un dono allora quello che fate. Se doveste fare così, ma voi non fareste un dono. Perché non è dono ciò che qualcuno poi so deve guadagnare per averlo. Allora, voi regalate qualcosa, per esempio, ad un figlio vostro, no? Voi gli regalate una bicicletta. Che gli dite? Figlio mio, ti regalo una bicicletta perché ti voglio bene, però in cambio, voglio dire, dammi tot, e sarà tua la bicicletta. Insomma, Ma allora, è un dono o non è un dono? Se è un dono non dovete richiedere alcun pagamento, eh? Non dovete richiedere alcun contraccambio, è un dono. E così è la vita eterna, che è il dono di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. E Dio ce l'ha donata, noi la dobbiamo conservare. La dobbiamo conservare credendo nell'Evangelo, perché chi crede a vita eterna? Gesù ha detto chi crede a vita eterna. Fino a quando tu crederai che Gesù è il Cristo, ricordati, avrai la vita eterna. Nel senso, diciamo, potrai dire ho la vita eterna. Nel momento certo in cui rinnegherai il Signore, dovessi rinnegare il Signore, dovessi tirarti indietro, allora questo non lo potrai più fare. Non lo potrai più fare perché? Perché quelli che si traggono indietro, appunto, smettono di credere e smettendo di credere perdono la vita eterna. Fino a quando tu crederai, tu avrai la vita eterna. Chi crede ha vita eterna. Quindi, perché questo? Perché la vita eterna è il dono di Dio. E Dio non ci ha detto, vi dono la vita eterna, però dovete pagare parte, eh? Dovete pagare una parte, anche minima, però me la dovete pagare, eh? In questa maniera, in quest'altra maniera, pregando, digiunando, facendo elemosine, alcuni poi ci aggiungono anche pagando la decima. Allora, il Signore non ci ha detto questo, fratelli, No? E nemmeno ce l'ha fatto capire. Il Signore ci ha dato la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Quindi la vita eterna è nel Signore Gesù, perché Lui è la vita eterna. Ecco perché chi ha il figliolo ha la vita. E quindi, vedete, è di fondamentale importanza ribadire la gratuità della salvezza, della giustificazione, della vita eterna. Molti, ricordatevi, parlano della grazia ma non sanno cosa sia la grazia. Io vi ho detto spesso, guardate che anche la Chiesa Cattolica Romana parla di grazia, usa il termine grazia. Se voi sentite, diciamo, il capo della Chiesa Cattolica Romana, nei suoi, diciamo, nelle sue catechesi, nel, diciamo, quando fa il cosiddetto Angelus, no? Quante volte gli sentite menzionare la parola grazia? Ma quante volte? Anche associata alla salvezza. Ma se voi studiate bene il cattolicesimo, vi renderete conto che il cattolicesimo annulla la grazia di Dio. Il cattolicesimo detesta la salvezza per grazia mediante la fede, la giustificazione per fede e quindi per grazia, come anche detesta che un cristiano detesta sentir dire che un cristiano affermi con piena certezza di fede ho la vita eterna, anche perché hanno creato il purgatorio. Hanno creato il purgatorio. E chi ci va al purgatorio? Qualcuno ci deve per forza andare, no? E allora uno non è che può dire io ho la vita eterna, perché devi andare in purgatorio. Troppo bello. Sì, tu vai in cielo subito. E che sei un santo, ti dicono? E che sei un santo? Per andare in cielo bisogna essere santi. Infatti, noi andremo in cielo perché siamo santi, santi in Cristo Gesù. Ah, ma voi siete i soliti presuntuosi. No, noi non siamo i soliti presuntuosi. Noi proclamiamo quello che dice la Sacra Scrittura. Noi siamo i santi dell'Altissimo. Cristo Gesù ci è stato fatto anche santificazione. Noi in Cristo siamo santi. Siamo i santi dell'Altissimo. Siamo sulla via della salvezza e quando ci dipartiremo da questo corpo andremo ad abitare con il Signore. In cielo, nella gloria, ci riposeremo dalle nostre fatiche. Non andremo in alcun purgatorio perché il purgatorio non esiste. È un inganno satanico che, diciamo, l'unica cosa che riesce a fare è portare tanti soldi nelle casse del Vaticano. Ecco, questo si riesce a fare. Ma il purgatorio non esiste, è un luogo che non esiste. E allora, questi sapete cosa ti dicono? Ti dicono, sì, nella Chiesa Cattolica Romana sostanzialmente ti dicono, Dio dà la vita eterna ai buoni, così dicono, però poi alla fine ti mandano sempre in purgatorio a penare non si sa mai per quanto, perché veramente la sosta in purgatorio è lunga, anche perché più lunga è la sosta e più soldi naturalmente incassano le parrocchie, perché le messe che vengono dette per i morti, che sono nel purgatorio, secondo loro sono a pagamento. Sono a pagamento, sì, vabbè, state attenti, dico no, ma non è vero, a pagamento, noi chiediamo solo un contributo, un'offerta, sì, ho messo, sono tutti uguali, come anche nelle chiese evangeliche, no, noi non mettiamo in vendita, chiediamo un contributo, praticamente è una messa in vendita, però mascherata da che cosa? Imbroglioni che non siete altro, siete una massa di imbroglioni, voi pensate veramente di poter imbrogliare tutti, ma guardate che non ci riuscirete a imbrogliare tutti, qualcuno sì, ma non tutti, e infatti i locali di culto sono spesso vuoti ultimamente. Bene, una buona notizia, si stanno riempendo le case. Allora vi stavo dicendo, state attenti perché la Chiesa Cattolica Romana parla di grazia, ma poi annulla la grazia di Dio con tutto questo sistema teologico fondato sulle opere. Sì, perché? Perché la vita eterna per la Chiesa Cattolica Romana si deve guadagnare. Si deve guadagnare, ma sapete quanti cattolici dicono apertamente, ma io mi sto impegnando, sto faticando per cercare di guadagnarmi la vita eterna, il paradiso. No, non è così, non è così. Poi quando gli dici, ma tu hai creduto? Sì, come? Io? Certo che ho creduto. Però quando gli dici, se hanno la vita eterna, ti dicono, no, quella non ce l'ho la vita eterna. Non posso dire di averla, spero che un giorno il buon Dio, loro lo chiamano così, spero che il buon Dio si ricordi di me, delle mie opere buone e mi dia la vita eterna. Ascolta, cattolico romano che mi ascolti, ravvediti e credi nell'Evangelo, perché altrimenti te ne andrai all'inferno. Non c'è opera buona che tu possa fare che ti scamperà dall'inferno dove sei diretto. Tu andrai all'inferno, diritto, diritto, Diritto, diritto, ravvediti, convertiti dai tuoi peccati. E credi nell'Evangelo della grazia di Dio affinché il Signore abbia misericordia di te, ti salvi, ti giustifichi e ti dia la vita eterna, perché altrimenti per te non ci sarà scampo, non la farai franca, ti potrai andare a confessare dal prete quanto vuoi, ricordati che quei peccati ti rimarranno sempre sulla coscienza, perché solo Gesù Cristo, il Figlio di Dio, può togliere quei peccati. E lui è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Del mondo. Quindi ravvediti, cattolico romano, mariano, ravvediti e convertiti e credi nell'Evangelo. Allora sperimenterai la grazia di Dio che non sai veramente cos'è. Anche se la menzioni nei tuoi discorsi, tu non sai cos'è la grazia di Dio. Ma nel momento in cui crederai nell'Evangelo della grazia, allora veramente il Signore avrà misericordia di te e allora capirai cosa voleva dire l'Apostolo Paolo quando disse «Gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opera affinché ognuno si glori». Allora e solo allora lo capirai, allora e solo allora capirai perché l'Apostolo Pietro, di cui peraltro voi dite di avere successore, ma che non è successore dell'Apostolo Pietro, perché Pietro non ha avuto successori, come anche non è stato capo della Chiesa, e allora capirai che cosa voleva dire e perché l'Apostolo Pietro disse queste parole, noi crediamo essere salvati per la grazia del Signore Gesù. Quindi sappi che il Dio è buono, pronto a perdonarti, però sappi anche questo, che se rifiuterai di ravvederti e di credere nell'Evangelo, te ne andrai all'inferno. Io ti ho avvertito, cattolico romano, ascolta quello che dice la parola di Dio. A voi adesso, fratelli nel Signore, voglio terminare questa mia predicazione confutatoria, esortandovi per l'ennesima volta a lottare strenuamente per la fede, perché si sono insinuati in mezzo alla Chiesa degli uomini malvagi che praticamente annullano la grazia di Dio con sofismi vari. Purtroppo, lo sappiamo, non tutti hanno conoscenze, ci sono anime instabili che cadono vittime di questi impostori, di questi malvagi. Quindi badate a voi stessi per non essere trascinati dietro l'errore di questi scellerati che annullano la grazia di Dio, che parlano di salvezza per grazia, però menzionano questa espressione solamente per attirarvi a loro e poi uccidervi spiritualmente, perché costoro, vi posso assicurare, hanno un veleno d'aspide sotto le loro labbra, che una volta che penetra in voi vi ammazza, spiritualmente vi ammazza, perché costoro vi fanno scadere dalla grazia, costoro vi fanno rinunziare a Cristo. Fratelli, ascoltatemi, io ci tengo a voi, ci tengo alla vostra salvezza, perché il mio desiderio, la mia preghiera è che voi aggiungiate veramente alla fine del corso, serbando la fede, e veramente il mio desiderio, la mia preghiera è che voi veramente siate salvati dal Signore nel suo regno celeste. Ecco perché vi scongiuro del continuo a rimanere saldi nella fede, a rimanere saldi nella grazia, che peraltro rimanere saldi nella fede e rimanere saldi nella grazia sono espressioni che si equivalgono, perché rimanere saldi nella fede significa automaticamente rimanere saldi nella grazia. State saldi nella fede, state saldi nella grazia di Dio che è in Cristo Gesù, perché molti sono coloro che odiano Dio e quindi odiano anche il popolo di Dio, lo vogliono ingannare e trascinare in perdizione, ed è per questo che costoro ci odiano e si inventano ogni sorta di calunnia contro di noi. È gente dal diavolo, è gente con cui non bisogna avere niente a che fare. Peraltro in mezzo a loro c'è un'ignoranza spaventosa, ma proprio un'ignoranza che veramente, cioè, ma che ignoranza che c'è proprio, cioè, mancanza di discernimento, mancanza di sapienza. Ma perché? Perché chi cammina nelle tenebre, che cosa pensate possa avere? Sapienza? Conoscenza? Discernimento? No, cammina nelle tenebre. Le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Che cosa vi potete aspettare, da gente che odia Dio? Sapete, talvolta penso a questo, nel senso che da un lato sulla terra ci sono coloro che amano Dio con tutto il loro cuore, con tutta la loro anima, con tutta la loro mente, con tutte le loro forze, però ci sono anche quelli che odiano Dio. Che odiano Dio? Cioè, Dio fa... Cioè, io voglio dire una cosa, no? L'Iddio ad ogni grazia. È buono, è fedele, è giusto, è santo. Io voglio dire, ma perché questi lo odiano? Lo odiano. E si capisce che lo odiano non solo perché odiano la grazia di Dio, ma perché poi odiano veramente coloro che sono nella grazia e sotto la grazia, coloro che sono da Dio. Eh sì. E d'altronde chi odia Dio per forza di cose, poi odia anche i figlioli di Dio. Quindi state saldi, fratelli e sorelle nel Signore, nella fede, serbate la fede fino alla fine, perseverate nella grazia di Dio. Fratelli, rimanete sotto la grazia. Noi lo siamo, rimaneteci, fratelli, rimanete sotto la grazia. Siate zelanti nel bene, fate veramente ogni bene, qualsiasi bene che il Signore vi mette davanti, fatelo, ma rimanete sotto la grazia, difendete la grazia, e celebrate il Dio, ringraziatelo privatamente, pubblicamente, per la grazia che vi ha voluto fare, ringraziatelo per la salvezza che vi ha donato in Cristo, ringraziatelo per la giustizia di Dio che vi ha dato in Cristo, ringraziatelo per la vita eterna che vi ha dato e che voi avete. Ditelo, proclamatelo che avete la vita eterna. È la verità, quindi non vergognatevi di dire la verità e non temete gli insulti, le calunnie, degli eretici, degli scellerati. Proclamate ciò che è la verità e il Signore sarà con voi, il Signore vi onorerà, il Signore vi confermerà e proverete sicuramente una grande gioia nel proclamare ciò che è la verità di Dio. Dunque, rallegriamoci nel Signore, rallegriamoci veramente nel Signore del continuo, perché siamo sulla via della salvezza. Siamo sulla via della salvezza per la grazia di Dio. È una via dove coloro che vi camminano sono giustificati e hanno la vita eterna. E questa vita è nel figliolo di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.